Io invece sai che pensavo, che secondo me la birra e ognuno porta un suo argomento, cioè una sua tematica. Arriva l'acqua. Futura trasmissione no buona. No, lo vedrete cosa succederà tra 18 mesi. Salvateli tutti. A stronzo! Pop Corner. Ah, belli di casa, questo è lunedì sera di Runtime Radio. Peccato che è mercoledì e questo già ci dice tutto su come stiamo iniziando questo secondo episodio di Pop Corner, che è il nuovo episodio del nuovo anno e vita nuova, anno nuovo, tutto nuovo. Michela De Paola. Salve a tutti. Anzi no, tu non sei Michela De Paola, abbiamo sbagliato. Tu sei Svetlana, cioè Svetlana, no, neanche Svetlana. Mercedes. Zdravsvite, perché so solo dirlo in russo. E Zdravsvite anche alle donne Mister Zero. Ok. Alle Mister Zero. Mister Zere, le Mister Zere. Mister Zero. La rosa di casa Mister Zero, anche detta Anna Maria. Ok, perfetto. Diciamo che questa Mercedes a me mi ricorda tanto Michela De Paola, ecco perché mi sono sbagliato, solo per quello. Marco Gualdi. Ciao, io invece sono la quota rozza di... Sì, la quota rozza. Quota rozza di... La quota mezza. Che è Zdravabznia, che in lingua... che in lingua rozza. Rozza significa a te tuo nonno. Esatto. Una cosa del genere. È solita. Ma quella è un'altra. La prossima puntata vi dico come si dice al solito. Va bene. E Walter Sbano. Allora, io invece sono la quota sotterranea del programma, la quota sottomarina, però... sottomarino o sotterraneo, decidi, non puoi essere entrambe. Tutto il globo terracqueo. Pizzi, una domanda: perché siamo apparsi? Mi chiedeva il buon Mr. Zero in chat. Si domandava come mai fossimo apparsi sul player come OGM Special, OGM Team. Era partita una replica, non eravamo noi. Probabile, sì, probabile. Un po' i casi della vita, sì, perché adesso si vede live broadcast. Esatto, sì, probabilmente. Decisamente sì. C'era una replica che era quella che è andata l'altra settimana e al posto del... perché durante queste settimane che siamo mancati, diciamo, andavano in onda le puntate di Cosoli. Perché diciamo la verità, fino alle 20:59 non sapevamo se ci andava. Guarda, te devo dire, a me mi va di fare questo programma, però oggi è stata una giornata veramente molto, molto difficile. Comunque manca Puccio che parla. Carmine, Puccio, console, era finita pure la musichetta. Quindi io sono la quota astemia della trasmissione. Che è sempre meglio che essere la quota marrone, insomma, che sappiamo bene. Tu sei la quota malata, diciamo, quello che deve... Quello che già sta dispensando. Ho passato delle vacanze di Natale interessanti. Perché mi dicono che tu stai già dispensando, diciamo, come posso dire, i tuoi averi. Sì, sto organizzando. Vabbè, io ho detto la scheda video. Ricordati la scheda video. Ricordati di noi. Sentiamo di poco. Guarda, ricordati del viaggio in Germania. Scusi, innanzitutto Mercedes, lei non si comincia a prendere tutta questa confidenza. È uno dei viaggi più belli della mia vita. Appunto. Esatto. Diciamo che è uno dei viaggi della tua vita. Più che altro, cioè. Il finale di merda, oserei dire. Che insomma. No. Finale di merda, perché ricordiamo, siamo tornati alla Germania io con la diarrea, Simone che con la febbre. Quindi insomma, tutta una serie di... È stato terribile, è vero. Di eventi. Eppure. Siamo sopravvissuti anche a questo. È stato eppure bellissimo. Ci ritorneremo. Un giorno. Non lo so, non vorrei stare nera, non lo so perché non ti voglio vedere bestemmiare di nuovo, insomma. Ma io perché? Sono tornato pieno di ossigeno. Allora, questa cosa la voglio raccontare. Ragazzi, ci troviamo di fronte all'orologio a cucù più grande del mondo. E Puccio dice: ma a me che cazzo me ne frega? Ma che è sta merda? Ma in realtà l'ho pensato anch'io. Un po' sì, è vero. Ma almeno è uscito il cucù che ha fatto. Cucù! È uscito, sì. Ma secondo me non era il cucù più tedesco. Secondo me non era il più cucù. Cucken. Ha fatto crucù. Crucù, mamma mia, quante ne sanno. Potremmo fare una trasferta tutti insieme. Scusate, ragazzi, ma in tutto questo abbiamo il coccodrillo di Franz Beckenbauer, visto che lo sai, non ci ho pensato, è purtroppo morto. È morto da mo, sì, da mo. No, da ma non era già morto? Ma no, è morto ieri. Ma per noi era un po' già morto, perché poi non era proprio neanche, cioè, era anziano. Però non era proprio vecchio, però era malato. Tema della puntata, secondo me, secondo voi, secondo noi, sì. Quando è che si comincia a essere anziani? Perché c'è molta. Secondo me. Vabbè, questa, io sono già anziana. Questa è la cosa che dopo si. Dopo i 40 anni. Esatto. Esatto. Anche io sono d'accordo. Vabbè, ma la soglia si allontana di generazione in generazione. No, soprattutto, no? Si allontana man mano che noi invecchiamo. Perché il compenso si avvicina alla sogliola con l'età. La sogliola, sì. Quella sì. Quella sì. Scondita con un po' d'oglietto sopra. Che mangerà. Vabbè, comunque, ragazzi. Ragazzi, proprio perché parlavamo di Beckenbauer, la prima cosa è dobbiamo commemorare i morti. Quindi, per commemorare i morti, dovete fare con me questo esercizio che è importante. Alzate la gamba destra. Alzate la gamba destra. Farlo, state con la gamba destra alzata. Ecco, in questo ma momento. Da seduti o da in piedi? Io lo sto facendo. Allora, da in piedi sei più virile, chiaramente. Okay. Pure okay. Marco Gualdi. Lo faccio anche io, anche se c'è il cane che mi annusa i piedi. No? Vabbè. Allora, state con la gamba destra alzata. In questo momento mi sta finendo il sangue. Anche a me mi fa male, però, dopo un po'. Non è il dolore, è che il sangue non c'è più. Non siamo abbastanza fracisti noi, purtroppo. Questo è un problema che forse ci attanaglia la muscolatura. E quindi non possiamo commemorare i morti, quindi sti cazzi, no? Sti cazzi. I morti, certi morti si possono commemorare solo a testa in giù, ricordatelo. Alcuni, non tutti. Non alcuni. Tutti, ma alcuni. Alcuni, è vero, hai ragione. Però, invece, ho visto che Sbano a casa sua c'ha un quadro bellissimo che io voglio. Ho provato a dire Sbano, ti do 5 euro, me dai il quadro? Lui no, dice ma no, sto quadro c'ha troppo valore, è roba del genere, e quindi infatti basta semplicemente prenderlo con la forza. Fra tre giorni quel quadro, così, misteriosamente, sarà a casa mia, però, esatto. Però con una lieve modifica. Lo spruzzo di sangue sopra. Un colotto sulla testa del personaggio. Vabbè, sì. Guarda, è un poster, nel senso che se ci mettiamo d'accordo è tuo, Ah, ok. No, così. Il Ser Zero accolto, dice: occhio Osmano che fa come Sgarbi. Tra l'altro ne abbiamo parlato ieri all'orazione. Appunto. Ci disegna una candela e spari. Infatti volevamo fare una citazione, diciamo, alle orazioni della sera, però ragazzi, prima di iniziare seriamente. Perché questo non è esatto, la parola seriamente mi sono fermato perché non so seriamente, ho sbagliato il programma. Io avevo dato l'ictus. Esatto, mi sono ictusizzato. Vi faccio sentire lo spot che adesso però c'è un problema tecnico, non mi ricordo dove l'ho posizionato. Premi dei tasti a casaccio, fai come si sbaglia. No, quello è Walter. Quello è professionisti. Premi dei tasti a casaccio e spaccialo per la nuova hit dell'estate. Cioè, è così che si fa. Per una modica cifra ve lo faccio sentire io. No, ho fatto, sono pronto. Vi faccio sentire lo spot perché poi voglio spiegare un secondo questa cosa, perché già sono arrivate delle candidature, attenzione, è importante questo. Quindi vai. Sei un musicista amatoriale? Hai una band un pochino scalcidrata? Non hai particolari pretese di premi o festival importanti? Beh, allora manda la tua demo a Runtime Radio e partecipa anche tu all'Anti Sanremo, il concorso musicale nel quale non bisogna mai essere troppo permalosi né pretenziosi. Invia la tua demo a runtimeradio@gmail.com con un file audio aggiuntivo, con una breve presentazione del progetto musicale e del brano inviato. Dai! Cosa stai aspettando? In fondo, che ci devi fare con quella registrazione fatta in cantina ed editata con GarageBand di Apple? Ti aspettiamo su Runtime Radio. Ed ecco qua, mentre Michela ovviamente parla durante gli spot. Così. Sono Michela. Ah no, è Svetlana, è vero, sono la signora Svetlana. Siccome nella mia terra fa freddo, chiedevo di alzare i termosifoni. Ok, adesso io gli chiedo a Walter di dire una cosa, così lui inizia a parlare, io ho il tempo di alzarmi e andare a accendere i termosifoni. Qui possiamo chiedere a Walter di alzare i termosifoni direttamente a lui. Esatto. Ma lui fa pellet, non posso. Lui c'ha il pellet, è una questione di pellet, capito? Butta più pellet nella. Comunque, cos'è l'Antisanremo 2024? L'Antisanremo 2024 che andrà in in onda su rantemeradio.it il 9 e 10 febbraio, quindi voi dite manca tanto tempo, manca tanto tempo, ma bisogna organizzarsi. È un festival, quindi un concorso canoro, però chi può partecipare a questo concorso cioè questo concorso canoro, scusami, intanto che ti interrompo l'ictus. Sì. Il concorso canoro è perché la radice è da cane, ovviamente. Canoro, esatto, il canoro, esatto. È proprio il premio, poi, è un cane d'oro. Esatto. Bravo, esatto. Comunque è un concorso canaro dove tutta una serie di personaggi si scontreranno praticamente in due serate fino ad arrivare a decretare il vincitore. Prima di tutto non si vince niente, questa è una cosa importante, che e mi sembra una cosa fondamentale. Fondamentale, cioè, neanche la gloria. Non se vedo... troviamo qualcuno che ci sponsorizza, facciamo questo cane d'oro, glielo mandiamo. Non vincete neanche la visibilità. No, zero, esatto. Zero. Dovete essere italiani, chiaramente. Cioè, siamo anche un po' razzisti. Sì, beh, l'anti-Sanremo, scusa, deve essere il festival della, deve essere solo stranieri, dell'antimusica italiana. Dovete essere anticantanti. Infatti, esatto. È questo: chi può partecipare? Allora, Marco, guardi, fondamentalmente tutti. Potrei partecipare con una nuova hit. Allora, tu ci sei, però ci sei fuori concorso, ovviamente. Per una questione di trasparente, perché qui Potrebbero succedere cose. Allora, ok. Comunque, chi può partecipare? Tutti possono partecipare, da chi ha, insomma, un'organizzazione, strumenti analogici, digitali, registra in maniera seria, fino a quello che con il telefono waterproof sotto la doccia si registra cantando. Quindi allora posso partecipare. Tutti, non c'è, cioè, indiscriminatamente tutti, cioè la qualità. Mi non puoi fare una c'ha base? Rotto il cazzo. C'è rotto il cazzo, ti faccio la base. Ed è arrivato un bellissimo brano, tra l'altro, da Morgan. Non possiamo, Morgan di Sanremo, ricordiamo. Che attenzione. Vertigo, Morgan. Esatto. L'abbiamo fatta. Esatto. Proprio lui ci ha mandato questo brano che secondo me lui è già candidato alla vittoria. Ma non possiamo farlo sentire prima? No, non lo possiamo. No. Sentire. Sì, anche secondo me vince. I brani sono inediti. Non si può dire. Allora, non possiamo dire questo. È vero, vince, stiamo influenzando. Stiamo falsando tutta la cosa. Hai ragione. Vabbè, decidiamo noi chi vince. Scusi, Mercedes, lei innanzitutto. Prima di tutto è ospite, esatto. Quindi cioè, specifichiamo, lei qui non conta un cazzo, proprio per dirla. Si mantenga per cortesia. Dai, vomiti addosso. Però poi salutiamo anche Callum, che è entrato nello staff. Simone, guarda, siete mancati da... per qualche momento. Ah, ok. No, l'importante è essere tornati. L'importante è riesserci. Ora ci siamo. Ci siamo? Sì. È il cane che c'è, mi ha camminato. C'è il cane che sta sotto il coso. Esatto. Dovremmo fare in modo che dovremmo ucciderlo. Vada. Esatto. Vabbè, cane, come... vai. Il cane, quando ci sono queste. Vabbè, allora, il cane d'oro che verrà regalato, in realtà è il cane che viene dorato con la... come golfino. La immergeremo nell'oro invece, fuso. Solo che invece di essere una donna dipinta d'oro, è il cane dipinto d'oro. Che bravo, esatto. È proprio così che funziona. Comunque, vabbè, quindi avete capito. Io però avrei una sfumatura tecnica che ti chiederei di chiarire. Per me, anzi, sono due le cose che vorrei chiarire. La prima è: di chi è la voce dello speaking dello spot? Perché non ho capito. No, è importante, è il nostro nuovo amico che è entrato in Runtime Radio, si chiama Callum, è uno speaker professionista che, come sentite... Dunque Callum assomiglierà di anziano. No, ma non c'entra niente. Guarda, all'inizio sembra più un po' un Richard Benson Mercedes. 30 anni fa. Tre cose le devi dire, non esca con la quarta, esatto, così improvvisamente. Esatto, non prende iniziativa. Mercedes, che con poi abbiamo che la paghiamo tra l'altro. Esatto, noi abbiamo un lavoro per lei fra comunque, poco. Comunque, cioè, la naftalina nel caffè uccide tutti, 3 secondi. La naftalina nel caffè, innanzitutto non puoi perché non c'è naftalina dentro sta casa. Esatto. E che ne sai? Te lo dico io. E poi perché Mercedes, so che lei non è avvezza ai mezzi radiofonici, perché parla dall'altra parte. Vabbè, perché ti stavo minacciando. Il terrore mi è venuto. Vabbè, comunque. Ok, però la domanda tecnica era un'altra. Ah, prego, vai, scusa. Allora, posto che da come l'abbiamo impostata, potrebbe sembrare, essendo l'anti Sanremo, dice: vabbè, mandateci qualunque merda voi vogliate, perché il concetto sembra passare questo. Ma per me è quella di Sanremo che è musica de merda, quindi mi aspetterei che la qualità che proponiamo noi sia maggiore. Infatti è maggiore. Ma guarda, io penso che qualsiasi merda ci arriva. No. O attenzione. Ci arrivi anche. È un anti Sanremo, quindi sono anti canzoni di anti merda. Ricordate, i Jalis li abbiamo contattati. No, adesso la stai, a mettere sul complicato, Waldi. Allora, se volete potete fare anche brani interamente realizzati con l'intelligenza artificiale. Noi, merda la quadra. Noi non abbiamo assolutamente nessun tipo di preclusione verso strumenti del moderno futuro. Solo contro gli stranieri, ma gli italiani vanno, esatto, bene. Anche cercate, se intelligenti. I Jalis potrebbero partecipare. Hanno un nome straniero, quindi non possono, esatto, partecipare. Noi siamo un po' più. Allora pure Morgan non può partecipare. Morgano, deve usare il suo Morgano, vero nome. Che il suo è Morgano, infatti. Basta. Però, e tra l'altro, al festival si partecipa con la gamba destra alzata. È importante anche questo. Camminando sulle mani. Camminando. I presentatori presentano con la gamba destra alzata. Allora, presentatori ci sarà una donna con le zinne di fuori. Cioè, no, nel senso, non proprio con le zinne fuori, ma mentre parla gli sguisciano fuori le zinne. Questa è una cosa importante. Che in radio, purtroppo in radio voi non la vedrete, ma noi lo vedremo. Quindi ci sarà anche all'inizio, voi purtroppo in radio non la potrete vedere, ma ci sarà anche una bellissima marcia dell'orca. Il famoso marcia dell'orca. Al grido di viva il truce, viva il truce. Esatto. E quindi per il truce e Baldazzi. Esatto. Ok, quindi Sbano, è chiaro oppure hai altre domande tecniche? No, basta, va bene così, va bene. Sono soldi, ma se lei fa desiderare di guardare Sanremo. Infatti non ci posso arrivare, questo mi dispiace. Sanremo è proprio la mia nemesi. No, la nemesi. No, ma poi diciamoci la verità. Cioè, tutto questo è fatto per divertirsi. Cioè, lo spirito è lo stesso di quando facevamo i mondiali, no? Gli europei, gli Euroludica. Però non erano antimondiali quelli. Che non erano antimondiali, però a modo nostro un po' lo erano. Cioè, non sapevo come chiamare il programma. Tra l'altro, secondo me è venuta una cover bellissima. Perché fatte con l'intelligenza? Ovviamente, rigorosamente. Non siamo capaci. Rendono tutto più bello. Esatto. Se tu la fai con l'intelligenza artificiale, la cosa è più bella. Anche la cacca. Tra l'altro, siamo stati blastati da Leo lunedì mattina, che dice: basta, tutta questa gente che fa le cose con l'intelligenza artificiale. Perché non ha ancora visto il libro game fatto da intelligenza artificiale, che gli regaleremo. Esatto. E noi lì sotto. No, ok, mani alzate, tutti così, eh? Va bene, comunque ragazzi, io ho visto, e non so cosa ne pensate, volevo la nostra opinione, parlando di cose pop, le reti di Mediaset stanno facendo un tantam incredibile sulla pubblicità di un film nuovo, che sicuramente ci riporta, insomma, Rambo, sulle reti di Mediaset rifanno Rambo. Vabbè, un po' che non si vede. Di continuo, credo, su Rete 4, no? È un continuo. Hanno fatto tutta la rassegna dei film di Rambo di recente, anche tutti i Rocky. È quello nuovo o è quello vecchio? Tutti, no. Mettono da Rambo tutti insieme. In contemporanea. In sovrapposizione, sì. Esatto. No, diciamo che, insomma, questa sera mentre guardavo la partita, che ricordiamo la facevano su Italia 1. E insomma, ogni tanto c'era questa cosa dei Rambo, il primo, unico, incredibile, il film che ha dato l'inizio di un'era e un'icona. Allora, Rambo è un'icona? Beh, sì, guarda quello di Fratelli d'Italia che ha sparato, insomma, l'ha fatto perché lui ha visto Rambo da bambino. Quello è Rimba, non ha... stavo là, insomma. Un altro personaggio. Vabbè, dai, per me Rambo è un po' un'icona, cioè a me non mi piacevano i film di Rambo. Quando era quel primo, che è una critica della guerra al Vietnam, sì. dei reduci, addirittura. No, lo è. È vero. Sì, no, lo è, è vero, ha ragione. Il primo Rambo è quello. Però è veramente. Cioè, che gli altri cambiano completamente. Cioè, sì, dal secondo Rambo è come se fosse un'altra cosa. Io non me lo ricordo. No, ma il primo film di Rambo è preso da un romanzo che si chiama Primo Sangue, First Blood. Sì, First Blood. Che è scritto da. Non mi ricordo se era esattamente anche lui stato in Vietnam o comunque aveva lavorato fianco a fianco con i reduci, e quindi era la somma dei racconti che aveva sentito da queste persone o sul campo, e l'aveva poi riadattato in forma di romanzo. Dal secondo in poi sono film d'azione, cioè, con un personaggio praticamente immortale che supera qualsiasi tipo di ferita, e poi non so se avete visto e che si cuce da solo, quella è la cosa importante, eh. Sì, ma quello è la cosa meno inverosimile, probabilmente. Magari lo fa anche come Schwarzenegger in Predator, mi pare. Sì, perché poi ha dato il via, no? Poi dopo il film di tutta gente che seguiva. Che utilizzava le ferite col coltello. Esatto. Vabbè, quello comunque, cioè, tutto vabbè, sommato. Ragazzi, restando nel cinema verosimile, perché raccontava una storia veramente successa, c'è, cioè, quel film, mi pare 127 ore, di quell'escursionista che rimane bloccato con un braccio in una specie di canyon e si deve autoamputare il braccio per salvarsi la vita. Allora, intanto bisogna capire che braccio è. perché ma ovviamente quello, non lo apri, quella Youporn Pizzi, no, quella è la versione XXX. No, no, no. Non mi riferivo a quello, mi riferivo al fatto di, cioè, quando tu decidi di perdere un braccio, ovviamente per sopravvivere, quando non c'è scelta, qual è la scelta, cosa che ti pesa di più, se è il braccio destro o il braccio sinistro, e quindi dipende anche il rapporto cieco. Ho capito, ma se il braccio destro ce l'hai congelato, il sinistro no. Diciamo che quello se fosse stato intrappolato, la mano abile probabilmente non sarebbe riuscito nemmeno ad amputarsi, non lo so. Comunque, vabbè, la ricordo per sommi capi questa vicenda. Ma poi perché? Come ha fatto? Scusa, io voglio sapere come ha fatto. A morsi. No, lo so, ci avrà avuto un colpo. No, come ha fatto ad amputarsi. L'enigmista, so. No, non come ha fatto ad amputarsi, io dico come ha fatto a incastrarsi, cioè, voglio dire, in un canyon. Ha visto un buco e ci ha messo il braccio. Cioè, non mi sembra normale. Io in realtà l'enigmista ho visto bene la poltrona davanti a me, perché mi sono nascosta sotto la poltrona. Ma me l'hanno raccontato. Scusi, ma Mercedes, ma nel paese suo, quando l'hanno trasmesso, lo facevano col doppiaggio quello tipico? Quello dei russi. In cui si sentiva tutto il parlato in inglese normale, e poi si normale sentiva quello che spiegava qualsiasi cosa, quindi comunque la cadenza era sempre la stessa, quindi anche se tu stavi per morire, stavi morendo, stavi soffrendo, questa cosa l'ho vissuta, devo dire. Comunque, vabbè, torniamo un attimo a Rambo. Walter, per te Rambo era un'icona? No, forse un po' più Rocky, va, se proprio, ma nemmeno, nel senso... Dai, Rocky sì. Però, allora, tra i due protagonisti di film di quegli anni, preferivo quelli con Schwarzenegger. La mia icona, anche se ovviamente non c'è niente di politico, non è la stessa cosa, era Terminator, quindi... Vabbè, questo è per essere come Roma, da Roma per essere da Lazio, cioè, o Schwarzenegger o Stallone. Io sceglievo sempre Kevin Bacon e Tremor. Ma che c'entra? Ma che c'entra, però va bene. Vabbè, perché a me mi piace più Tremor. Anche a me per Pozzetto faceva morire dal ridere. Ma che cazzo c'è? Vabbè. Stiamo per arrivare a Footloose, ovviamente. Per me cioè, non è che Terminator dopo. No, vabbè, Terminator era bello, però quello. Ah, il primo. Allora, posso dire a me tutta sta roba, non ci ho mai impazzito tanto dietro, no? No. Però Rocky era un bel film, dai. Rocky, ma pure Terminator era. Poi bello. Secondo me Sylvester Stallone con quell'ictus, cioè con quella faccia un po'. L'ha avuto da giovane, quindi. Sì. Appunto. Quindi, capito, quella faccia un po' strana. Oh ragazzi, visto che siamo in argomento, ma voi la docuserie sulla famiglia Stallone l'avete vista? No. Perché fa troppo ridere. Ma è un po' tipo Osborne. E sì. Allora no, dai, tocca vederla. Perché io quando mi sono ritrovata a vedere Ozzy Osborne che pitturava, che faceva i disegnini, faceva e pitturava, io l'avevo detto. Perché a quanto pare lui c'ha solo figlie femmine, quindi sono loro più che altro le cucinate. Fate parlare pure Walter, però. Non solo figlie femmine. No, volevo dire che io ho visto Tulsa King, che è una serie con Stallone recente, molto divertente. Però Stallone credo che abbia un figlio maschio che in qualche modo aveva. Aspetta, mi documento. Aveva lo stesso ictus del padre. Magari viene da qualche altra moglie. Che poi, tra l'altro, diciamoci la verità. E questo. Allora, Sergio Stallone. Sergio Stallone, che era il figlio che in qualche modo era. Saltato agli onori delle cronache, perché non mi ricordo, qualcosa aveva combinato. Come si chiama? Non ho capito. Sage. Stallone. Che cazzo non è Sage? Sì. Ma è morto. È morto? Sì. Ah, ecco perché allora. 2012. Hai capito? Sì, sì. Ammazza, coraggio. Cioè, quindi praticamente è salito all'onere delle cronache perché è morto. È diventato famoso. Io credo che sia morto perché quando ha scoperto che il suo stesso nome completo era Sage Moonblood Stallone. No, Moon non ci voglio credere. Questo è peggio di mio padre, che me lo chiama Er, no? Ah, comunque c'è un altro film che è Sergio Stallone. Sì, Sergio Stallone. Un altro professione figlio. Attore. Ovviamente. Ma no, comunque nella docuserie sono più le figlie che parlano del padre. Ma dove sta questa docuserie? Credo che sia, non mi ricordo se sta su Paramount o probabilmente su Paramount Plus, sì. Ok. Credo che sia su Paramount. Anche perché, cioè, immaginatevi di uscire con la figlia di Stallone. Voglio dire, non deve essere facile. Loro lo spiegano in più di un modo, fatto tipo ti viene a prendere il ragazzo con cui dovresti andare a cena e lui arriva e trova tuo padre in una posa assolutamente drammatica. Vabbè, ben vecchio, dai, su. Sul balcone. Ma, insomma, vecchio. A me fa abbastanza paura pure adesso. Allora, la serie si chiama The Family Stallone, ragazzi. Sto guardando l'anteprima dello show proprio in con un vezzo d'originalità, oserei dire. Sono 8 episodi della stagione completa. Così. Vabbè, ho visto qualche pezzo così di sfuggita, ho fatto molto ridere. Vabbè, quindi Walter preferiva Schwarzenegger, e tu, Buccio? No, io ero Team Rocky, decisamente. Ah, anch'io Team Rocky. Gualdi non si è espresso, però. Io lui non faceva distinzione. Non piacevano tutti. Il primo Rocky. Un altro doppiatore prima di Ferruccio Amendola, secondo me a quel personaggio dava anche un'impronta più interessante. Va. Sai che non me lo ricordo questo? Mi ricordo su questa cosa, me lo ricordo su Indiana Jones. Stasera c'ho Indiana Jenna. Indiana Jenna, che praticamente mi ricordo che è il primo film, cioè, infatti c'ha una voce un po' diversa. Così, ma anche Harrison Ford quando faceva Han Solo su Star Wars, infatti c'ha una vocetta un po' così, insomma, che non mi stava proprio tanto simpatica, insomma. Meno profonda e colorata. Bravo. Devo dire che comunque molto del successo in Italia è vero che è sempre un po' controversa sta cosa del doppiaggio, soprattutto perché in Italia noi del doppiaggio, diciamo, abbiamo anche un po' abusato, nel senso che oltre a essere doppiaggio, a volte se la cantavano, sì, e se la suonavano. Però diciamo che secondo me Harrison Ford Sylvester Stallone, secondo me Amendola gli ha dato tanto, insomma. Ma il doppiaggio di attori anche come Alessandro Rossi per Schwarzenegger ha dato una dignità ad attori proprio bravissimi. Però è pure vero che quando a un certo punto se ci pensi, no, Ferruccio Amendola era Stallone, Pacino, De Niro, Hoffman. Questo è vero. E anche Thomas Millian a un certo punto diceva: vabbè, a una certa basta, però. È vero, hai ragione. Questo assolutamente sì. E poi soprattutto perché il problema è che lui era bravo perché sporcava il doppiaggio, ma è vero che poi alla fine li faceva tutti così. Cioè, nel senso, per esempio, ditemi quello che vi pare: Al Pacino doppiato da Giannini. Tutte le volte meglio, sì, mille volte superiore. Credo che tu ti sia scordato un altro personaggio fondamentale. Thomas Millian. L'ha detto. Stavo pensando al commissario Girardi fortissimo mentre parlavate. per dire, veramente, cioè, adesso si dice fa tutto Favino, all'epoca doppiava tutti Amendola, eh? Cioè, è vero, hai ragione, sì, su questo. Cioè, più che altro i personaggi quelli più carismatici, diciamo, li faceva lui, e alla fine purtroppo poi li faceva tutti uguali, cioè, poi questo la cosa è. Però poi quando è morto, diciamo che un po' lo stacco ce l'abbiamo avuto, anche se, come dici giustamente te, Giannini ha compensato più che bene, insomma, devo dire la verità, anzi forse secondo me anche meglio, perché è emerso quando uscì Hit, no? La sfida in cui c'erano Pacino e De Niro, e dici alto un attimo, no, non li può fare tutti e due, e quindi ma mi pare che lui si fosse proposto per farli tutti e due, perché diceva che in realtà le voci sarebbero comunque risultate diverse perché li interpretava in due modi diversi. Poi gli hanno detto ma che cazzo stai a dire, sì, è probabile, però Vabbè, comunque, alla fine della fiera, secondo me, appunto, Pacino è stato molto molto migliorato da come lo ha doppiato. Nel frattempo mi sono dimenticato. Ma non fa niente. Ma tu di nomi anche così tanto, sai che noi Mario. Abbiamo il livello d'attenzione che è pari a Zegner. Comunque, tornando al discorso di quello che si era incastrato con il braccio dentro al canyon, invece Michela sa perfettamente, io tutte le sere mi faccio una scorribanda su YouTube negli shorts, e adesso il trend che ovviamente ti suggerisce YouTube, sai, ti fa vedere una cosa, se tu te la guardi più di 10 secondi da lì in poi te fa vedere solo quel tipo di roba, e praticamente c'è la gente che si fa male malissimo. Devo trovarlo. Ma guarda, ragazzi, a parte che non capisco il senso di fare una compilation della gente, perché sì, fa ride quando uno sbatte, casca, ogni tanto ti viene una risata, ma lì c'è sta gente che si fa male sul serio. Cioè, hanno fatto Jackass su gente che si faceva male deliberatamente, ma quelli lo facevano apposta. Ma pensa quanto sei cretino, cioè. Comunque, ragazzi, è arrivato quel momento. Siete pronti? Sì. Prontissimo. Siete pronti? Io ho un momento emozionante. Beh, questo è un sigo il fazzoletto. Non cada male, però almeno scusa se ti interrompo, poi mi taccio. Almeno la sigla ha tolto ogni dubbio. È Mercedes. È Mercedes. Mercedes. È... Esigo il fazzoletto in testa. Ah, innanzitutto lei non può esigere niente perché sì. Non sappiamo con neanche se c'ha il permesso di soggiorno. E voglio anche la sottoimpressione e la sovraimpressione. Ma noi ci basta l'impressione di telefono. Insomma, non è video, capisce? Radio. Non so che lei potrebbe non conoscere la differenza perché al paese. Voglio la sottoimpressione. Vuole, va bene. Perché se no non esiste. Allora, senta, abbiamo due messaggi. Dire al mio paese natale che alle mie nonne. Sei andata a Natale? Le babusche. Che sono quelle che ci buscavano sempre. Ah, babusca. Vabbè, basta. Come faccio a dire alle babusche che preparano la vodka? Di sputarci dentro? Che io sto facendo. Diventando famosa all'estero. Mercedes, ma noi non ci possiamo porre questo problema. Le faremo una foto dove lei è in radio e quindi gliela manda e loro capiranno. Farei una foto e poi ci appiccicherai, farai un collage. Esatto, Mercedes. La sovraimpressione, okay. La sottoimpressione. Allora, la posta del cuore di Mercedes, ragazzi, se avete dei problemi veramente di profondo disagio, mandateceli e Mercedes in qualche maniera vi risponderà. Abbiamo due messaggi questa volta. Troppi, mi dovete pagare tre. No, saranno sempre due messaggi, anche se ne arrivano di più. Noi comunque non vogliamo poi. Ma non te li sfrutti, non te li usare. Cioè, non si preoccupi. Non si preoccupi. Non farei così se non fosse perché, insomma. Allora, il primo messaggio è un po' più delicato, il secondo è un po' più tranquillo, insomma, diciamo così. Da quale vuole iniziare? Dal più tranquillo. Dal più tranquillo, va bene. Allora, ce l'ascoltiamo, Sì. Sempre da sé a casaccio. Io non ho le carte, comunque. Sono Giulia e ho una domanda da porti. Però ho bisogno di partire subito con un esempio pratico. Io sono una persona pratico. Molto freddolosa. E in inverno, la sera, guardo la televisione sul divano, in pigiama, con i calzettoni, quelli belli, spessi, sotto la coperta di pile, e a volte pure abbracciata alla borsa dell'acqua calda. Premetto che ho problemi di circolazione. Ecco, un mio ex di tanti anni fa, quando mi presentavo in sala davanti alla TV con questa mise, esclamava: ecco, è arrivata nonna Belarda. La mia domanda è giusto in una coppia essere autentici, in contatto con i propri bisogni e agire di conseguenza? Nel mio caso è appunto vestirmi da nonna Belarda e non curarsi del partner, abbandonando anche quell'ansia che noi donne a volte abbiamo di voler piacere a tutti i costi. O esiste secondo te un'asticella di decoro personale che per rispetto del partner non si dovrebbe superare? Che detto in parole povere suona così: c'è un limite allo sbraco nel rapporto di coppia? Grazie Michela per la tua risposta. Allora, innanzitutto non è Michela, precisiamo questa cosa perché continuano a esserci delle confusioni in merito. La colpa è la colpa tua perché continui a chiamarla Michela. Hai ragione, Mercedes. Intanto il cane si è portato la cuccia sotto di me, va bene. Allora, aspetta, non c'ha Michela, non c'ha le carte, ma ce le ho io, quindi facciamo un'espressione. Ah, ok. Tira fuori una carta. Allora, adesso tiro fuori la carta ed è il. Ecco, bella carta questa. È il gatto rovesciato. Bene, Michela. Io ce l'avrei la risposta, però. Il gatto rovesciato vuol dire che quando tu conosci, diciamo così, le prime volte che conosci questo gentiluomo, devi praticamente. Allora, io ti farò un esempio che è tipico della mia terra natia, insomma. Mazza come parlo bene italiano. Comunque. È che incredibile, è ovvero vero. Le donne russe, sì. Perché vabbè, ormai. Diciamo che sono rinomate per essere Putin bellissime. Che non esistono le donne in Russia per essere bellissime, sono impeccabili, sono stupende. Sì, fino a una certa età. Poi diventano matriosche. Esatto. Poi praticamente quando il nel senso si sposano e ottengono la loro la dote. Diventano improvvisamente tutte babushke. Cioè, babushke veramente. E quindi è giusto sbragarsi o mantenere un limite. Secondo me è giusto Cioè, tanto se ci vuole arrivare, ci arriva lo stesso, pure con 47 strati di pigiama. Ma no, dai. Però aspetta, cioè, qui la domanda che ci faceva la nostra, non ricordo come Giulia, si chiama, Giulia, è praticamente, ovviamente, essendo la morte, la tomba del sexy, della sensualità, quindi diciamo dell'intimità, ecco, diciamo così, se per te va bene comunque vestirsi in quel modo perché si sente a suo agio, anche se ammazza la sensualità. Ma sì, ma ammazziamola. In fondo, secondo me, lei, Mercedes, non so, ho questa sensazione che pure lei è un po' un fagotto dei pigiami, cose. Sì, assolutamente. Multistrato. Il multistrato, io ti ho detto, se poi bisogna arrivare al dunque, gli strati Si strappano. Sì, okay. Sì. Però il problema è che lui, trovandosi di fronte a questa tutta sbragata con i calzini dei buffi, non credo che lui sarà sto stinco di Tom Cruise, insomma, sarà sbragato anche lui, ma magari è uno che si presenta con tutta la, come si chiama qua, la tartaruga, cioè, no? Non è che come si chiama Jimmy White pedofilo, le birre che ha fatto la pubblicità della mutanda, insomma, Air Mutanda. Non credo che sia Air Mutanda, Allen White, ok, esatto. Insomma, non credo che sia sto gran figo, quindi insomma, vabbè, quindi, parità Giulia. Di sessi, Giulia, parità di sessi. Ma che è sto body shaming? Ma poi che cazzo c'è? Ma a parte che cosa c'entra la parità dei sessi? Cioè, nel senso, però sì, scopritevi tutte e due quando serve. Oppure copritevi tutte e due e fate un buco solo lì. Come si faceva? No, come facevano quelli i mormoni? No, non ricordi i mormoni? No, dicevano, no. Quelli che mormonavano. Le scoprite. Lì e levate gli strati uno alla volta. Tu torni a casa. Al grido di scopriamo. È così. Scopriamo. Come diceva, esatto, il nostro carissimo amico. Diamo ostia. E quindi, vabbè, Giulia, secondo me è giusto scoprirsi e coprirsi tanto. Spero che Giulia sia soddisfatta. Io andrei al secondo messaggio, un po' più particolare. Intanto unisco le carte. Gentilissima signora Mercedes, innanzitutto vorrei ringraziarla perché per me lei è una guida morale. Ma come, appena iniziamo? Io ascolto sempre le sue parole che per me sono di una enorme importanza. Io mi presento, sono il maniaco del 64. Io mi alzo presto la mattina, tranne il venerdì che ascolto il grande reset. Bravo, bravo. Mi reco al terminal degli autobus in piazza dei 500 e prendo il 64. Io adoro questa linea perché ci sono i turisti, ci sono le vecchiette, ci sono le suore. E quanto mi piace, ecco, strusciarmi sulle borse, sugli zaini, sui carrelli della spesa. Però io ho questo problema, signora Mercedes, loro mi guardano male, a volte anche mi parlano male. E inoltre ci sono i lavori in corso, il traffico, e ho spesso pensato di cambiare linea, ma io sono il maniaco del 64. E quindi... Per citarla, signora Mercedes, io ho questo dilemma, questo dubbio. Cambiare linea, magari il 712, magari una linea più periferica, ma io adoro il 64. Ci sono i turisti con i piedi nudi nei sandali tutto l'anno, con quelle unghie sporche, e ci sono le suorine con le calze nere e le scarpe ortopediche anche d'estate. Io non posso cambiare linea, eppure il dubbio mi attanaglia. La prego, signora Mercedes, mi indichi la via. Ecco, questa è una cosa, un quesito importante, cioè, sì, bisogna decidere il destino. Qui devo dire che io conosco, qui si entra su temi dedicati. Innanzitutto tira fuori la carta, perché tira fuori la carta. No, cosa conosci? Non conosci nessuno. Io mischio, conosco poi il maniaco, perché io ma prende il 64. Andiamo, stai sempre sul 64. Okay. No, vabbè, ma lui prima di andare al 64 prendeva il 90, che era quello che prendevo io. No, per andare al 90 di Italia è bruttissima, ragazzi. Ho capito. Comunque io sto stremendo la carta. La carta è il parlamentare armato. So cazzi. Però quella è un'altra storia. Però la carta, quella è un'altra storia, però. La carta è questa, quindi potrebbe. Ce la interpreti secondo lo zodiaco. Scusa, lo come faccio? Che c'entra il maniaco col parlamentare armato e lo zodiaco? Invece, secondo me, le carte ci dicono che appunto ci sono dei politici maniaco, che vogliono intervenire in maniera drastica. Sul 64, quindi continua ad andare sul 64. Non ti preoccupare, la suorina. Anzi, facci sapere che insomma venimo a fare. Sì, infatti, a dare una mano. Il bisogno di vivere, di energia. Ma mica ci vive nel 64. E vabbè, però, dato che ci sono lavori in corso e che ci deve stare tanto, magari ha bisogno di forze, di coraggio. Comunque, sappi che noi facciamo il tifo per te, perché anche se c'è il parlamentare, che era il parlamentare, noi ti difenderemo. Armato, bisogna interpretarlo. Il parlamentare armato ti difenderà, perché comunque, come ha difeso tutti i maniaci, che cioè come sta difendendo tutti i maniaci sessuali depravati del che prende che stanno al governo. Cioè, c'è un parlamentare che difende i depravati che stanno al governo, cioè, e se scontrano col Cicalone, se incontrano praticamente, sì. A un certo punto c'è sto scontro al vertice tra parlamentare che difende i depravati e Cicalone. E comunque io vorrei dire che ho avuto un passato da No, non vogliamo sapere cose. No, c'ho avuto da un parlamentare o da maniaco? No, da incontratrice dei maniaci, perché comunque tutti ho fatto per tanto tempo la pendolare, quindi me ne sono capitati tanti. Anch'io ho fatto il maniaco una volta. Scusate, ma sto povero Cristo che deve fare? Dice che deve continuare. Deve continuare. Ti consigliano di continuare. Di continuare, perché anche perché lui ne ha bisogno. Lui il parlamentare armato ti difenderà. Esatto. Cioè, lui ne ha bisogno, perché lui dice: io sono il maniaco del 64. Non so il maniaco del. No, il maniaco del 64 lo invitiamo su archeologia informatica. Scusa. No. Vedi. Ha un... per Commodore. Commodore. Maniaco del Commodore 64. No, ci sarà stato un maniaco del Commodore 64. Devi continuare la tua attività. Anzi, ogni tanto fatti vivo, facci sapere come procede. E che l'anno prossimo c'è. Ormai scusa, Michele, c'è il Giubileo. Infatti, giustamente, Walter dice: Walter, facci tu. Va a cercare il 64. Sì, sì, io ti vengo. Devi andare al terminal degli autobus e c'è il 64. 500, è facile. Metterai i calzini bianchi bucati per farti riconoscere? No, come no? No. Come ti riconosci allora? No, i sandali. Col pedalino bucato. Quelli sono io, sono tutti bucati. Per non essere guardata. Perché guarda, vestite da suorina, lo fai emozionare. No, quello non lo vorrei, insomma, preferirei di no. Quindi insomma, ci vado bardata, però vado a trovare il maniaco del 64. Vabbè, dai, basta, perché insomma, abbiamo parlato abbastanza di sto maniaco. Però devo dire, lo salutiamo. La cosa migliore che ascolterete oggi, voglio dire, quindi. Lo saluti, che hai detto, scusa? È la cosa migliore che ascolterete oggi, per cui. Infatti, comunque salutiamo il maniaco del 64, sì. Salutiamo anche Giulia, grazie Mercedes, insomma, del tuo allora, contributo. Allora, secondo me dovete continuare a bardarvi tutti, perché non ho capito perché non vi potete bardare e sbardare quando serve. Ok, e potete continuare a strusciarvi. Potete essere sexy anche bardati, come le befane. Anche sul 64. Vabbè, questo, anche questo lo sai, quelli bardati sexy sono i furri, quindi non so se forse oh, raga, basta. Vabbè, ma stiamo raggiungendo confini inenarrabili. No, vabbè. Ma fa confusione, secondo me. Sì, la sexitudine si raggiunge anche col mentalmente, sì, col pigiama di unicorno. Dei buffi, ok. Bello, mi è venuta una gran voglia di fare. Qualcuno che magari è Simone in qualità di marito le spiegherà com'è che al maschietto medio si alza il fatto apposta, perché secondo me ci stiamo arenando su questo, cioè dimentichiamo certi tecnicismi, ecco, se volete la mia opinione, poi fate come le pare. Andrea Trevisan. No. Che bella battuta. Bravo. Comunque sta facendo il caffè. Hai ragione. Walter, di qualcosa di pop. Pop? No, guarda, raccontaci qualcosa. Hai visto qualcosa di pop recentemente? Tra l'altro, sto guardando la nuova stagione di Reacher su Amazon Prime Video. Sì. Carina. Quella dove finalmente il protagonista non è alto 1,10 m come nel film, ma è alto 3 metri come nei libri. 1,98 m. Sì, secondo me, se continua così con gli anabolizzanti che prende, non arriva alla terza stagione, perché insomma è in canotto, fa impressione. non passa dalle porte. Sai che quella serie televisiva diciamo, un elefante nella stanza gigante come lui, cioè praticamente come fa un Cristo alto veramente 1,98 m e 113 kg di muscoli senza un filo di grasso con la vita che fa, perché lui praticamente è un ramingo, cioè un vangiro, non c'ha casa, non c'ha diciamo fissa dimora, dove cazzo si allena? Cioè, come fa a mantenere il fisico del genere senza andare in palestra? Come il bravo americano medio degli stati dove gli anabolizzanti nella carne sono ancora legali, ma non basta, la capito, non basta. Ma poi c'è un'altra cosa, quello è un Preacher, ragazzi, è una serie perfetta per un drinking game. E cioè ogni volta che qualcuno prende a capocciate qualcun altro si beve un goccio. Un goccio è scibriaco. Esce ubriaco dopo 10 minuti, sì. Fantastico. Beh, ne prenderemo nota, e anche Michele e Michela. Una di quelle serie cafone, guardi sapendo che sono cafone e ci ridi sopra perché sono, ma sono tanto cafone, perché lui veramente è qualche cosa di fuori scala. Cioè, Andrea Trevisan, chi sono? Ma guarda che funziona. Incredibile, buonasera a tutti quanti. Ci parla direttamente dalla caffettiera. Sì, esatto, una merda proprio. Cioè, come senti, dalla caffettiera? No, no, vabbè, dai, si sente. C'è un po' di riverbero. Sì, c'è un po' di chiesa. No, vada bene, si sente. No, dai, adesso no, adesso sente bene. Aperto il tappo. Se sbaglio, mi corrigerete. Esatto, no, ti sei perso Mercedes con, insomma, Mercedes chi, no? Vabbè, ma allora questo non ci segue neanche, insomma, vabbè, no, perché stavo a fare una cosa culturale in bagno un attimo. Okay. La cacca, vedi la cacca, però okay. Questa non è Runtime by Night. Esatto, ti confondi. Vabbè, comunque stava parlando Walter su Preacher, no, Preacher. No, no, Richard. Hai presente Jack Reacher con i due film, Jack Reacher con Tom Cruise? No. Ecco, okay, meglio così. Non ti sei perso niente. Okay. Questo personaggio di questi romanzi, diciamo, d'avventura e d'azione, è un ex marine, mettiamola così, poi senza scendere nei dettagli, un investigatore della marina che è un coso, perché non saprei definirlo diversamente, di 2 metri per 2. È così nei libri ed è così nella serie Prime Video. Al cinema lo stesso personaggio è stato interpretato da Tom Cruise, che non arriva a 1,70 m, quindi capisci che c'è qualcosa che non torna. Perché in 16 noni si è allungato, no? Decisamente. Accorciandosi. È in anamorfico. Hanno sbagliato il razio. Sì, ma l'anamorfico allarga orizzontalmente, non verticalmente. Infatti il problema è quello. Appunto, se allarga orizzontalmente si accorcia. Ma non è nemmeno abbastanza largo. E qui dopo non dite che non siamo su Runtime by Night. Hai ragione anche tu. No, vabbè, comunque, visto che chiedevi qualcosa pop, è una che sto guardando in queste settimane, perché è uno di quegli episodi che viene droppato uno a settimana, quindi non posso fare il binge watching. Come pensa che mi sono sparato la prima stagione in una domenica. Ho fatto una cosa terribile. Permette. Sì. Comunque ti fa passare bene il tempo, perché alla fine, per quanto ci sia molta violenza, cattiveria varia, è comunque divertente. Cioè sì, è divertente, e poi è talmente leggero che non è che devi stare concentrato che perdi qualche concetto fondamentale. Quindi no, potresti perdere qualche capocciata fondamentale, esatto. Però il resto, vabbè, tutto sommato, ci può stare. No, la serie è tutto sommato libera. Carina. Puccio? Io mi sono visto Monarch. La serie che ha prodotto Apple TV sui mini kaiju. Sul kaiju verse del. Beh, oddio, quello che si vede più spesso è Godzilla. Quindi tanto mini. Tra l'altro, noi siamo andati a vedere. Scusa, ti interrompo. Siamo andati a vedere il ragazzo e l'airone. Mm-hmm. E io dovevo andare. Com'è? Siamo andati a vedere nella sala IMAX. E c'è stato questo trailer di questo film. Che era in teoria pensavamo che fosse un film di King Kong, invece no, è King Kong X Godzilla. No, ma non è contro, no. Fanno squadra insieme. Insieme. Cioè, questi film, ragazzi, non si vedevano dagli anni 60. Sì. Cioè, Godzilla vs Kong, non l'avete visto? Quando è uscito un anno e mezzo fa? Ah, no. Anni fa, quando è uscito? Un paio d'anni fa. No, sì, me lo so orgogliosamente perso. Diciamo che, cioè, vabbè, è fatto benissimo. E poi abbiamo visto che esce una, diciamo così, una costola, uno spin-off di Mad Max. Furiosa. Sì. Ho detto subito Mad Max, però non capivo che cavolo era. Poi alla fine sono riuscita a capire. E penso che lo vedremo. Cosa? Non mi sono distratto. Furiosa. Ah, Furiosa, sì, vabbè, però cioè, già dall'inizio del trailer ho già capito, insomma, di chi si trattava. Però Mister Zero dice, scusate perché stiamo tralasciando un po' la chat, dice Richard troppo bello. Vabbè, poi, non so tua moglie, cioè se lo dicesse tua moglie Richard troppo bello già lo capirei, se lo dici tu è più preoccupante, diciamo. È più preoccupante, dovresti, esatto, dire è una serie molto bella, quello, esatto, dovresti dire, perché Richard troppo bello, poi vedi che escono fuori gli arcanini, come direbbe anche Inga, allora avrà anche un grandissimo svastuka, capito? Svastuka diventerà molto popolare. Ne abbiamo visto, scusa, Mercedes. Che vuol dire svastuka? Mortacci tua. No. Sì. No, è russo. E dipende da lì. In tedesco non lo sa, lei sa russo. Non lo so. Cazzo non lo sa. No. Non mi ricordo neanche come si dice in russo. Vabbè, ritmo, quindi niente, Buccio si stava a vedere, ha detto? Gli stati di pigiamoni, uno si dimentica certi cose. Fate finire il commento a console. A console. Oh, guardi che lei è sempre ospite, se lo ricordi. No, lo dice Luca S. A parte che sono sempre ospite, lo dice a tutorella. Scusi, ma lei... Te sforno tutto. Oh, ma guarda che il microfono sta della... Collaboratrice domestica extracomunitaria, che un bel lavoro alle italiane, ma basta. Ma licenziamo sta Mercedes, dalla prossima settimana... La passata del cuore te la fai tu da solo. La prossima settimana troveremo un'altra Mercedes. La passata del cuore la viene a fare il maniaco del 64. Sai che a posto tuo troviamo tutte le Mercedes che vogliamo. Esatto, e anche le BMW. Guarda, chiamo il mio amico Baculino, a voglia macchina. Invece che col pigiamone viene col baby doll. Esatto. Comunque scusate, un appello di Luca S che dice anche Monarch merita, fate finire il commento a console. No, ancora non è finita. In realtà penso manchino ancora un episodio. Però in realtà risolve il problema dei film americani di Godzilla recenti, che è Monarch che interviene, che c'ha gli studi sui kaiju, ma sta gente chi cazzo è? Che è la domanda che ti puoi porre mentre guardi quei film. Gli viene fornito questo background, che tra l'altro non è scritto né in maniera banale né una cosa scontata. È appassionante come trama. C'è Kurt Russell che fa sempre bene. C'è il problema che sta su Apple TV. Sì, sempre su Apple TV, anche da anziano, come For All Mankind. Esatto. No, tra l'altro c'è lui che fa se stesso, cioè interpreta un personaggio da anziano, e il figlio che interpreta lo stesso personaggio da giovane, quindi c'è questa roba generazionale. È il vero figlio di Kurt Russell? Sì. Sì, per risparmiare sulle... però è figa come cosa. Cane, giusto? Cioè, il figlio di Kurt Russell si chiama Jack Russell ed è un cane d'attore. Beh, certo che se fai Russell di cognome e chiami tuo figlio Jack, sei infame. No, non credo si chiami Jack. Non sapevo neanche avesse un figlio che facesse. Eppure, sai, ci potrebbe essere una seria probabilità che si chiama Jack. Cioè, tutto sommato, se ci pensi. In America. Wyatt si chiama, scusa. Ha proprio evitato il problema alla radice. Come si chiama suo figlio? Si chiama Russell. Perché, scusate, il figlio di Clint Eastwood, che è assolutamente identico al padre da giovane, e si chiama Minnie Eastwood. Vabbè, che poi tutto sommato, cioè, non è una cosa così strana, insomma, che un figlio assomigli al padre, tutto sommato. Non ha detto. Comunque io ieri su Prime, mio padre. Io ieri su Prime di solito ho visto una cosa, esatto, che... Ah, è vero. No, ragazzi, questa è roba pop. Questa da popcorn ci sta. Michela ieri, mentre che io ero in live con Pixel Deb, si è vista un documentario. L'ho visto apposta senza di te, perché così ho evitato di bestemmiare. Sì, sentivo solo le bestemmie. Esatto. Perché tra l'altro su Prime, diciamo pure questa cosa che Prime, è inquietante, cioè, questo fatto. Cioè. Esattamente 10 anni fa. Proprio 10 anni fa noi vivevamo un incubo, ovvero decidevamo... Non pensavamo di vivere un incubo. Vivevamo un incubo, una cosa proprio che non ho mai visto in vita mia. Cioè, ovvero decidevamo di andare a visitare quella che per Simone era il desiderio della sua vita. No, ovvero, esagerata. Andiamo alla Stickon. A me già lì mi sembrava... i farenghi. Va bene, andiamo a vedere la setta, cosa. Ragazzi, veramente una setta. E praticamente ci siamo ritrovati catapultati in un mondo dove se praticamente, anche se tu paghi 100 euro per il biglietto, e è quello che abbiamo pagato, ve l'assicuro, all'ora di pranzo, se non sei della ciurma, te ne devi andare dalla fiera. E poi no, dovevi pagare un biglietto supplementare per partecipare alla cena, al pranzo ufficiale, dove c'erano gli attori, sì, esatto. Poi gli attori. Esatto, e praticamente vabbè, c'è questo documentario che parla esattamente di noi che siamo stati sequestrati da questi pazzi furiosi che fanno parte di questa setta. Non parla di noi. No, cioè, sì, nel senso mi sentivo molto. Nel senso che è il documentario sullo Stick-On. Sullo Stick-On. Quindi esatto. Anche sullo Star Trek Italian Club e tutto. Tutto quello che è il mondo che ci gira intorno, compresi i soldi, perché compresi poi, i soldi, esatto. Perché poi loro lavorano come schiavi per preparare questa cosa e si autotassano e pagano pure per stare salato, nella oltre cosa. Tu, esatto. Tra l'altro adesso, se uno gli dice ma scusate, ma lo ritenete normale lavorare all'interno e oltretutto pagare il biglietto d'ingresso? Sì, perché lo facciamo per la famiglia, per la famiglia. E raga, cioè veramente famiglia. È un mondo che se non l'avete visto, ragazzi, è la Cina. Non potete capire. Cioè, sì, esatto. Sì. Adesso praticamente si sono inventati questa cosa, hanno cambiato location, faranno la di nuovo la Stick-On a Bellaria a maggio, ma e ci sarà di nuovo il capitano Picardo lì, il dottor Picardo. Che capitano Picardo, Picardo. Capitano Picardo. E praticamente Picardo è il cliente. Signora, perdonami. E praticamente in Russia non è arrivato Star Trek 10 anni fa. Si chiama Picardo, anche lui in Russia si chiama così. Picardo, sì, e c'era 10 anni fa quando noi eravamo lì. Che è l'attore che faceva il medico olografico. Poi ci sono due vecchie. Scusate, è come Dietrich, è stato chiuso nei cessi. Esatto, bravo. È rimasto lì a Bellaria lui. Che poi la scena è stata Simone che presente dice: vabbè, voglio fare la foto con Picardo e voglio l'autografo. Allora sono 50 euro. Mortacci vostra, ma vattene a fanculo, pezzo di merda. Vattene a fanculo, Picardo. Chi soccula sto velato di merda? Poi ci sta praticamente. Loro hanno fatto l'experience, la Borg Experience. Quella era una figa, dai. Sì, però praticamente era veramente caciottara. Cioè, loro hanno preso tipo dei sedili di una macchina che hanno trovato per strada. Caciottarissima, sì, è veramente caciottarissima. E Simone che ha sbagliato tutto e quindi l'hanno odiato. Non è che sbagliava, cioè, se vede un cazzo. Dice, spingi il numero di frequenza 795, ma dove devo spingere? 9542. Io spingevo cose a caso, ma cazzo me ne fregava. Cioè, modo di dire, era una faceva cosa... partire sigle a casaccio. Sì, esatto. E nel frattempo io ero rimasta fuori dalla Borg Experience bestemmiando perché stavo in una sala dove si. No, c'erano i cosplay, però stavano a fare i cosplay lì. No, c'era la figlia di Paolo Attivissimo che. No, non di cose, non di cose, dai. No, che si era mascherata, non mi ricordo da che cosa. No, si era mascherata, non mi ricordo da che cosa, e poi facevano sta gara. Non mi ricordo di essere mascherata. Da brufolo. Ho rimosso veramente tutto perché poi, cioè, era un'autocelebrazione, era una cena tra di loro. E il povero, mi ricordo che il povero attore che era presente, che poi abbiamo rincontrato nell'albergo, che era colui che indossava la maschera di aiutami Simone. No, non ti aiuto perché ti avventuri a fare conversazioni inutili, non c'è niente. Era il vecchio che stava dentro Darth Vader. Vabbè, comunque adesso, se volete andare alla Stick-On, si sono inventati questa nuova formula. Non potete più entrare e praticamente non restare lì. Dovete per forza. Sarà stato Picardo. Sì, dovete per forza restare lì almeno due giorni nell'albergo, mangiare con loro, dormire dove dormono loro. Non è che con puoi. Loro anche. Sì, non è che puoi decidere di dire vabbè, io me ne vado oppure torno dopo cena. No, adesso devi mangiare con loro, devi vivere con loro, devi stare con bello, loro. Bello, mi piace. e quindi sei sequestrato e paghi la modica cifra di 565 euro. No, ma noi volentieri. Ah, mannaggia, perché oh, fino a 500 ci arrivavo. Sì. 50 mi manda un po'. C'è il Picardo, e più ci stanno due vecchie che non ho capito chi sono. Poi ve le dirò la sarà prossima volta. Genoway, no, non c'è, sì, Genoway, sì. Con cui puoi fare l'aperitivo. Ah, vabbè, dai, fare all'amore. Comunque, vabbè, questo è il documentario che racconta di tutte queste cose. L'unica cosa che posso dire, poi sentiamo un attimo Andrea se c'ha qualcosa di pop anche lui. È partita la pubblicità dell'agenzia. Ragazzi, non so qual è il motivo, perché io sono in linea, cioè non mi è caduta mai. Ci la sentite linea. Adesso? Però se anche loro non mi hanno sentito adesso. Perché stiamo parlando da un paio di minuti da soli, perché infatti ho sentito loro che dicevano qualcosa su internet, però non ci sono neanche i ragazzi. E vabbè. È caduto lo studio. Allora abbiamo un problema di linea, ragazzi, non so che dire. Abbiamo un problema di linea di Porcani che si è messo a dormire sul... Ah, può essere. E vedi se c'è internet. Ma c'è internet. Ricordo. Allora, non so. Adesso ci sentono. Ok, va bene. Ma Walter e altri? Non lo so, sono spariti. Adesso controlliamo. Comunque, concludendo, insomma. Concludendo, non guardate mai quel documentario, perché vabbè. Comunque, perché dà i soldi allo stick. Comunque è uscita un'altra carta, la cazzimma. Beh, perché noi siamo molto forti e quindi siamo tenaci e quindi romperemo le palle fino alla morte. Quella sconfiggeremo è lo stick, così. Sconfiggeremo lo stick. Sì. Poveretti, cioè. Alla fine hanno anche loro modo di esistere. Vabbè, dobbiamo risolvere qualche problema, ragazzi. Io direi che a questo punto chiudiamo la trasmissione. Sì. Mi dispiace, ma è andata un po' a cazzarella. Salutiamo Andrea. Andrea Trevisan, sì. Che... Ecco, bravo. Allora, ragazzi, mi dispiace perché insomma devo capire qual è il problema. Certo, uno dei problemi è il cane che sta sempre di là. Oggi doveva venire a rompere i coglioni, però va bene, sono cose che succedono. D'altronde lei vede che c'è il movimento qua, vuole sta qua, insomma. Che vuoi? Niente. Qual è il problema? Niente, scusa. Guarda che parli. Ok, ok, no, perché sennò qua io mi alzo di dire il cane addosso. Proce. Il cane d'oro. Il cane d'oro. Bene ragazzi, io ringrazio tutti i ragazzi che se ne sono andati per ragioni non dovute da loro. Ringrazio anche Marco Gualdi. Secondo Ciao. Me tu li hai espulsi. Ringraziamo anche Mercedes Dasvidania. Marco si ricorda come si parla la lingua sua. Ringraziamo Walter Sbano, Carmine Puccio Console, Andrea Trevisan che non ci sono. E ci vediamo la prossima settimana, cercando di risolvere tutti quanti i problemi, ok? E quindi cercando anche di organizzarci meglio con una puntata un po' più mirata, diciamo così. Ciao a tutti! Ciao!